diciamo raffiche di vento, ma la sofra deve stare sempre allerta. Adesso lunedì lo prendo, lo ripiazzo e così anche quello è sistemato fino alla prossima tromba d'aria. Va bene, buona serata a tutti allora. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao. Hola. Attenzione 10, c'è qualcuno? Hola. Prova radio. Sì, avanti. Attenzione, attenzione. No, non c'è il Roger Pip. Allora, questa radio va bene, Fabrizio, il motore radio va bene, è molto forte, è un po' ripetitivo, ma sul 45 si usa così, tieni conto quello, ecco. Io adesso sto utilizzando il 48, no, ma c'è solamente la scheda Echo, poi dovrei altre modifiche ho fatto, però il doppio modulatore ancora non l'ho montato, quindi dovrebbe spingere forte col doppio modulatore. Il problema è che non riesce a uscire il Roger B, la nota io la sento, è come che non ci sia il ritardo, mi manca il ritardo, è un po' particolare, io sto impazzendo con questo Roger B. Non riesco a farlo uscire. No, non si sente, perlomeno. Qua non sento niente. Se tu lo senti magari lì o non sta andando. Aspetta che provo a ponticellare una cosa, qualcosa, non sta uscendo la nota, cioè io la sento, però non sta uscendo, aspetta. Tu prova a togliere l'eco, perché è molto ripetitivo, cioè se tu parli, la cosa è giusto che sia così, però come te lo posso spiegare? Per dire ciao, capito? Allora, così l'ho tolto completamente, giusto? Così è bello amplificato la radio, è forte. Così gli ho dato un pelino, no? Quello che glielo posso dare dal potenziometro, come ti sembra così? Aumenta ancora perché non c'è. Così ho aumentato poco, vediamo un po' se posso regolarlo da qui o devo regolarlo dai trimmer interni. Adesso ce l'hai leggero, vai ancora un po'. Quindi diciamo che posso, no, perché ho messo la regolazione su uno dei potenziometri esterni. Ho capito. Inizia a andare bene, se vuoi puoi aumentare appena. Guarda, ho aumentato un attimino, poco. Come prima quasi, abbasso appena, proprio un cc, neanche un millimetrico. Tutto millimetrico qua, adesso ho abbassato leggermente, vediamo un po'. Ancora appena. Adesso ho abbassato un altro pochino leggermente. Lascialo così Fabrizio, per me, a mio orecchio va bene, è comprensibile la radio, ripete, non disturba e si capisce bene. Vabbè, allora diciamo che la scheda la posso lasciare così e poi regolo dall'esterno. Aspetta un attimino, provo a fare un ponte, elimino una resistenza, però mi sa tanto che non è la resistenza, mi sa tanto che il tempo di attesa del relè che è basso, ma non riesco a regolarlo, cacchio, se tu ti immagini il tempo che sto perdendo per queste modifiche, quando non hai mai fatto ti devi studiare, se no chi le fa li fa occhi chiusi ormai. Vediamo un pochino, guarda adesso se senti Roger B. No, ancora niente. E allora, dove cavolo deve in ingresso? Perché se cambio l'ingresso, perché comunque mi sembra che lei ritardi, cioè se io c'è un trimmer praticamente che gli do il ritardo, io quel ritardo lo vedo, ho l'impressione che rimanga. Aspetta, ma io lo sento che sto uscendo, aspetta che prova, però aspetta. Ho attaccato l'altro. Se ogni tanto non mi senti vuol dire che sto spegnendo e riaccendendo perché sto facendo queste prove, devo trovare dove collegare questa roba qua, aspetta. Ascolta Fabri, prima che magari non ci sentiamo, mi devo assentare 10 minuti, devo andare alla croce a prendere Gabriele e poi ci andiamo qua, che è arrivato. E va bene. Dai, ti richiamo quando sono qua, ok? No, adesso non sei uscito, prova. No, già sono uscito perché ho attaccato anche un'altra radio, dai. Ah, ecco. Dai, ti richiamo dopo. Ciao, a dopo. fatto senza la frontale. E diminuisci la frontale. Adesso provo a segnarlo col pennarello, vai. Adesso questo passaggio è andato bene. Quindi questo è il passaggio da camionaro. Sì, questo passaggio è andato bene. Adesso gli faccio un segnetto, tanto lo ritocco perché c'ho tutto smontato. Aspetta, qua questo andrà fatto così, ecco, così lo vediamo. Va bene, proseguiamo, vediamo se trovo il Roger B per farlo andare. E se riesco a finire questo, monto questa scheda, poi lavoro sul modulatore e doppio modulatore, poi vediamo di mettere la potenza e ho quasi finito. Andare. Prima cosa, il finale com'è? 85, oppure c'è anche perché sto guardando su. Allora, c'è 787. Sto sbagliando io, 787. Su questo si può montare il 1919 che non si trova più, però si può fare delle modifiche mettere dei MOSFET, però io avevo fatto all'epoca, c'ho proprio qualcosa, forse 40 watt dove riuscire ad aprire, ma sto usando un finale particolare, un MR455 della Motorola, quindi lì dovrebbe dare, non lo so, voglio montare quello, voglio fare delle prove, non lo so, ma tu cosa stai usando? Quella valvola o sempre quello che ti ho prestato io? No, adesso sto usando quello valvola, cioè attaccato, l'altro è attaccato alla Lincoln. Vabbè, sta sempre andando bene, sì, perché avevo cambiato il finale di quello. Sì, pompa, caspita. Vabbè, l'importante è che stia andando, dai, continua, usalo tanto, a me non mi serve per il momento, finché non farò il piano casa, che è così che faccio, a parte che non dovrei un altro, un garage di quelli, e un altro. Vabbè, vabbè, quando vuoi, mostrare, non c'è problema. Sì, vabbè, non mi serve, quando servirà non sarà per queste lune, vabbè, dai, proseguo. Vabbè, mi attingo alla... Che è vero che è sabato oggi, non per me. Va bene, dai, buon appetito. E adesso faccio un po' di fuoco, vediamo, di scaldarci. Niente, che dite, buon riposo, buon lavoro, vabbè, ci sentiamo, dai.